Linee d'ombra di Matteo Caccia. Veramente sentivo che rispondeva a qualcosa di profondo in me che mi affascinava. Io andrò in sala operatoria. Di fatto ci sono riuscito e ci sono andato. Dentro di me si manifestò un grande conflitto tra la professione che stavo svolgendo di ragioniere e l'esigenza di dedicare me stesso a tempo pieno nell'assistenza e la cura di persone ammalate. Storie di un giovane ragioniere e di una moglie americana in una puntata che si intitola Come si cambia. Giuro solennemente di consacrare la mia vita al servizio dell'umanità. Darò ai miei insegnanti il rispetto e la gratitudine che sono loro dovuti. Eserciterò la mia professione con coscienza e dignità. La salute dei miei pazienti sarà la mia prima preoccupazione. Rispetterò i segreti che mi verranno confidati, anche dopo la morte del mio paziente. Manterrò con ogni mezzo a mia disposizione l'onore e le nobili tradizioni della professione medica. I miei colleghi saranno i miei fratelli e le mie sorelle. Non permetterò che discriminazioni su età, malattia o disabilità, credo, etnia, sesso, razza, indirizzo politico, nazionalità, orientamento sessuale, classe sociale, né qualsiasi altro fattore intervengano fra il mio dovere e i miei pazienti. Avrò sempre il massimo rispetto per la vita umana. Non userò la scienza medica per violare i diritti umani e le libertà civili. Neppure dietro minaccia. Faccio questa promessa solennemente, liberamente e sul mio onore. Questo brano che avete appena sentito è tratto da probabilmente una delle puntate più belle di Grey's Anatomy, che è quella serie televisiva ambientata in un ospedale, ed è una sorta di giuramento di Ippocrate rivisto che viene recitato davanti a uno stuolo di medici. È una sorta in realtà di racconto di tutto il programma, perché mentre questo medico parla scorrono delle immagini di tutti quanti i medici protagonisti e delle difficoltà che hanno avuto durante il loro percorso medico, o comunque di narrazione di questa storia. E questa puntata, in qualche modo, diciamo, noi non dedichiamo le puntate abitualmente, però ci piace immaginare che possa essere una puntata dedicata a tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato negli ospedali, per cui hanno dato tutta l'assistenza sanitaria, medici, infermieri, operatori della sanità in generale, perché raccontiamo delle storie che sono legate proprio a quello, legato a delle persone che fanno delle scelte ben precise. La prima storia in particolar modo, quella di Michele, ci racconta di come la sua vita si è cambiata quando abbia deciso di fare una scelta radicale nella sua vita, di mollare una cosa e per mettersi a fare un'altra, che è appunto la vita delle infermiere. Si intitola Come si cambia questa puntata, e si cambia in diversi modi. Si cambia perché si fa una decisione, si fa una scelta, o si cambia perché, come vi racconteremo nella storia che abbiamo tratto da un pezzo molto articolato del New York Times di un paio di settimane fa, perché ad esempio arriva una malattia che cambia la vita di tutti noi, che la modifica, ci obbliga a stare in casa, e che, se accade all'interno di una casa, cambia radicalmente la vita di tutta quella famiglia, delle persone che ci vivono, che devono tenere un componente isolato e cercare il modo per entrare il meno possibile in contatto con lui, anche se lui è tuo padre, è tuo fratello o è tuo marito, come in questo caso. Insomma, è una puntata che in qualche modo tocca degli argomenti molto sensibili di questo periodo, degli argomenti che ci riguardano da vicino, perché li sentiamo abitualmente, però lo facciamo a modo nostro, cioè raccontando delle storie senza dare informazioni, dare dati oppure fare dell'approfondimento. o meglio, forse l'approfondimento anche quello lo si può fare attraverso delle storie di vita, attraverso l'esperienza di ciascuno di noi che viene presa, viene assemblata, e non assemblata, ma assemblata in un piccolo episodio. Questo fanno le storie, ti prendono, ti portano da un'altra parte rispetto a dove ti trovi in quel momento. Noi speriamo di farlo tutti i giorni dalle 15 alle 16 qui a Linee d'Ombra, e ti raccontano di una soglia, di un confine. In questo caso il confine è piuttosto sottile, perché quando arriva una malattia spesso il confine, come questa in particolar modo, quel confine non lo vedi, è invisibile, e quando fai una scelta forse e cambi vita, forse quel confine lo vedi una volta che l'hai passata, una volta che hai deciso di cambiare, ti riguardi indietro e la vedi là, la tua vecchia vita che non ti appartiene più. Insomma, noi abbiamo un pochettino di storia da raccontarvi, come sempre facciamo. L'unica cosa che vi chiediamo di fare quindi è di mettervi comodi e cominciare ad ascoltare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Era l'estate del 1982, quella del terzo titolo mondiale per l'Italia del calcio, ai mondiali di Spagna. Io, terminato il mio servizio militare di leva ad aprile, in qualità di sottotenente di complemento, in quell'estate ero in montagna nelle Dolomiti bellunesi a fare l'animatore di campi scuola per ragazze e ragazzi tredicenni, organizzati dall'Azione Cattolica di Treviso. Per me erano giorni pieni, scanditi dall'impegno di organizzare le giornate di una trentina di scalmanati, ragazzini e ragazzine. Giorni pieni ma anche belli, condivisi con altri ragazzi, animatori, dei quali io ero il responsabile del campo. Intanto, l'Italia ai mondiali faceva furori e si era addirittura qualificata alla finale contro la Germania dell'Ovest. A quel tempo esistevano ancora due Germanie. Così avevamo approntato un televisore di fortuna nel salone del centro Papa Luciani, in cui eravamo ospitati a Santa Giustina Bellunese. L'Italia, si sa, batte facilmente la Germania 3-1 e vince il suo terzo titolo mondiale. Così, a fine partita, affidati gli scalmanati da mettere a letto ad alcuni animatori poco interessati al calcio, io con altri e con il personale delle cucine, tra cui avevo trovato anche una morosa, andammo a festeggiare giù in paese. Fu una festa memorabile, di quelle che avrei ricordato per sempre. Beh, avevo 21 anni allora. Mi ricordo che questo paese si chiama appunto Santa Giustina Bellunese, e mi ricordo che era strapieno, c'erano macchine che passavano con gente che strombazzava, la piazza era piena all'inverosimile, cose che ad oggi sono improponibili in questi giorni, ma che di fatto era strapiena, eravamo un sacco di gente che facevamo festa proprio per questa cosa che era veramente inaspettata, visto come era andato la prima parte del campionato mondiale. E quindi veramente stavamo facendo tutti festa, fu una bella serata appunto che trascorremmo lì in piazza. Qualche giorno dopo ricevo la visita di mio fratello maggiore e di mia madre. Sono venuti per comunicarmi che papà è stato ricoverato in ospedale a Treviso perché, a seguito di problemi di ritenzione urinaria, gli è stato diagnosticato un tumore già in fase avanzata, in metastasi ossea, con prognosi di pochi mesi. Lui, per sua natura, si era sempre trascurato perché aveva paura di dottori, e questo fu il risultato, il peggiore possibile. Da quel giorno iniziò un cambiamento nella mia vita che in quel momento non potevo sapere. I primi mesi post intervento le cose andarono meglio di quanto pronosticato dai medici, ma presto cambiarono. Furono mesi di forte sofferenza per tutta la famiglia, mia madre e i miei fratelli, chiaramente mio padre. In questi mesi particolari lui maturò un bisogno che io fossi sempre al suo fianco, al capezzale del letto, perché nonostante il diploma di ragioniere ero quello che meglio sapeva seguirlo ed aiutarlo nei suoi problemi. With me, making up lovers on their own tonight. Need to see how it's done so I can change inside. I belong with everyone, everyone I've ever known. I belong with everyone, everyone I've ever known is here. With me. We'll be right back. Il giorno di Pasqua del 1984, il 22 aprile, dopo quasi 2 anni di sofferenza, mio padre ci lasciò. Da quel giorno in me si manifestò un grande conflitto tra la professione che stavo svolgendo di ragioniere presso una ditta privata e l'esigenza di dedicare me stesso a tempo pieno nell'assistenza e la cura di persone ammalate. Così, nel maggio del 1984, decisi di comunicare al mio datore di lavoro, che credo mi prese per matto, che mi licenziavo per iscrivermi al corso per infermieri professionali. Allora si chiamava così. Inizialmente pensava fosse questione di paga, di riconoscimento, ma non era assolutamente quello il motivo. Nel 1987 mi diplomai infermiere professionale e nel 2002 perfezionai con la laurea la mia carriera professionale. Da allora lavoro come infermiere di sala operatoria, inizialmente in neurochirurgia, attualmente da 27 anni, nel settore operatorio di urologia, lo stesso dove fu operato mio padre, iniziando a lavorare allora con colleghi e medici che ebbero cura di lui. Di acqua sotto i ponti ne è passata da allora, e le tecniche anestesiologiche e soprattutto quelle chirurgiche sono assai evolute da 33 anni a questa parte. Tanto è cambiato dal punto di vista preventivo, diagnostico, terapeutico nel campo urologico, e tanto oggi è governato dai computer, cosa che per chi non è pratico dell'ambiente sanitario sembra molto strana, e invece no, è così. Però, nonostante tutti questi cambiamenti, ancora oggi, per me e le mie colleghe e colleghi infermieri, la cosa più bella è la cosa più semplice. È quello che ci dicono i nostri pazienti in sala operatoria, dopo un intervento chirurgico. Frasi come «Grazie, siete stati bravi, gentili e professionali». Come si cambia? C'era una canzone, credo, di Fiorella Mannoia, Come si cambia per non morire, eccetera, eccetera. Come si cambia per amore? Insomma, beh, ok, quella era un'altra storia, ma la puntata di oggi si intitola Come si cambia proprio perché la storia di Michele ci ha fatto ragionare su questo aspetto. Abbiamo deciso di intitolarla così perché la sua vita è cambiata radicalmente, non solo da un punto di vista morale, da un punto di vista sentimentale, ma direi da un punto di vista estremamente pratico, perché Michele è partito a fare una cosa ed è finito a farne radicalmente un'altra. Pronto, ciao Michele, buongiorno. Ciao, ciao Matteo. Quanto tempo fa accadeva questo, insomma, lo dici nella storia, ma se ce lo ricordi, che tuo padre veniva a mancare e che tu decidevi di cambiare lavoro? Praticamente 36 anni fa. 36 anni fa, quindi praticamente potresti andare in pensione volendo, Michele. Oddio, mi mancano ancora alcuni anni, penso 6-7, però insomma sì, dai. Anche perché appunto ho deciso di cambiare lavoro un po' tardi, e quindi la maturazione degli anni. Senti, a me la cosa che incuriosisce di più, prima di andare al resto, è la faccia che ha fatto il tuo datore di lavoro quando hai detto mi licenzio, che era una cosa, oggi vabbè, men che meno, uno che dice mi licenzio, ma sei pazzo, lavoro a tempo indeterminato non esiste che uno lo molli, ma di questi tempi poi ancora di più, ma anche all'epoca comunque era una cosa strana, giusto? Che come ha reagito lui? Sì, certo, beh, certo. Beh, è rimasto decisamente basito. Lì come ragioniere avevo un buon stipendio, tra l'altro avevo iniziato da poco, quindi stavo imparando anche quel lavoro specifico. E lui non si aspettava proprio che io in quel momento gli dicessi buon ciao, me ne vado. Per cui è rimasto veramente sorpreso, anche perché cambiare per far cosa? Per fare l'infermiere, che al tempo è come se al giorno d'oggi uno dicesse lascio un posto in banca, che adesso, insomma, anche adesso c'è sulle banche, c'è qualcosa da dire, però è un posto sicuro per andare a raccogliere fragole, insomma, diciamo così, insomma. Per sì. Dire, insomma, ecco. Sì, in e quindi realtà, chiaramente è stato uno shock. In realtà, Michele, tra l'altro io ne approfitto, avendoti al telefono, avendo la tua storia, in realtà di questi tempi il mestiere che fai è diventato uno dei mestieri quantomeno più, sicuramente più apprezzati. Com'è la situazione? Tu sei di Treviso, giusto? Poco fa fuori onda mi dicevi che finalmente la situazione si è un po' calmata e quindi stai facendo le ferie, perché hai 78 giorni di ferie da smaltire, che è una roba impressionante. Come sono stati questi mesi? Alla faccia di quelli che dicono che lavorano poco, esatto. 78 poco. Giorni di ferie, cioè, è tipo 3 mesi da fare di ferie, volendo. Sì, volendo potrei fino a settembre stare a casa. Una cosa che non si può fare. Com'è stata? Tu siete stati tutti precettati? Siete stati tutti... Beh, certamente, guarda, è stato veramente un... Io ne ho viste tante in ospedale, perché questi 36 anni, dall'84, che ho iniziato a bazzicare l'ospedale, ne ho viste tante, ma francamente come questa non avevo mai vista. Cioè, in pratica nel giro di un weekend abbiamo smantellato un intero blocco operatorio, spostato tutto in un settore preciso per poter continuare a operare per le urgenze e per quel poco di interventi programmati logicamente per neoplasie, e tutto il resto liberato per lasciare spazio all'eventuale terapia intensiva, cosa che poi è anche di fatto accaduta. Cioè sono state proprio allestite delle sale operatorie come delle terapie intensive per dare spazio ai pazienti. Quindi è stato veramente un weekend di fuoco, e è stato completamente rivoluzionato tutto il nostro programma. Anche orario di lavoro quotidiano, sì, certo. Per cui è stata veramente un'esperienza che non avevamo mai provato, mai visto, e anche poi il doverci trovare di fronte a questi pazienti particolari che dovevano essere affrontati con un'attenzione diversa, particolare, diciamo, solito, quasi certo. Diversa, anche maniacale in certo senso, per evitare di coinvolgere noi stessi e i colleghi, familiari, quant'altro, familiari, insomma. In quei giorni, adesso insomma immagino che la situazione sia un pochettino più tranquilla, ma tant'è, ancora oggi comunque, ma in quei giorni di particolare tempesta, è capitato a te o di vedere ai tuoi colleghi di avere veramente di avere paura, cioè di avere paura di non uscirne, di avere paura di essere contagiati, oppure ha avuto la meglio il lavoro e la dedizione al lavoro e quindi vi siete attaccati al fatto che... Diciamo che proprio questa paura francamente no, cioè nel senso proprio di panico no. Un po' di apprensione, questo sì, e credo che sia anche normale, anche da parte di chi è abituato a lavorare nell'ambiente sanitario. Credo sia normale dell'apprensione, anche perché se non c'è apprensione, se non c'è un minimo di paura, la soglia di attenzione cala, certo. Sì, appunto, invece deve esserci, quindi un minimo di paura è anche, credo, fisiologico e positivo che ci sia, francamente. però insomma non ho panico, quello okay, no, quello okay. Assolutamente. E invece Michele, l'ultima cosa, poi ti ringrazio e ti lascio andare. Quando si parla delle persone che fanno il mestiere che fate voi, prima dell'emergenza, e tant'è, ora ancora di più, molti fanno riferimento alla vocazione, è un mestiere per cui ci vuole una vocazione. Ora, non lo so se è così e non mi interessa particolarmente il generale. Per quanto riguarda te, però, considerata la tua storia, considerato il fatto che tuo padre si ammala, tu gli stai vicino e scopri, sì, che hai una dedizione a fare quella cosa lì, molli un lavoro e ti metti a farlo, ti senti di poterla definire una vocazione oppure la consideri, continui a considerarlo un lavoro, punto e basta? Beh, diciamo che è una predisposizione, decisamente una predisposizione. Poi diventa un lavoro e nel lavoro ti realizzi. Francamente, per me è un lavoro che non lascerei mai. Cioè, non hai mai pensato chi me l'ha fatto fare, mai? No. No, francamente, anzi anche se, francamente, se avessi fatto il ragioniere avrei guadagnato di più pur avendo soltanto un diploma, mentre ora ho una laurea e guadagno meno, francamente non ho mai pensato chi me l'ha fatto. Chiarissimo, chiarissimo. No, chiarissimo. Veramente, è un lavoro che mi dà, che mi piace, che sono contento di svolgere assieme ai colleghi e le colleghe, che saluto. Guarda, anch'io, l'approfitto anch'io per salutarle, insomma, non voglio evitare di fare una cosa retorica, però vorrei tramite te, Michele, salutare un pochettino, certo, tutti gli operatori sanitari, certamente, che si sono fatti letteralmente un mazzo così in questi mesi assurdi, devo dire. Forse tra 10 anni potremmo dire io c'ero quando è successa quella cosa lì, che non è stato. Direi proprio di sì, e raccontarlo. Esatto, io lo dirò dicendo, pensa, sono stato a casa, chiuso in casa 3 mesi, tu invece dirai io ero proprio là, ero proprio in quegli ospedali. Sì. E ringrazio te e davvero tutti i tuoi colleghi per averlo fatto. Michele, quando vuoi mandarci una storia, noi siamo qui, in bocca al lupo per tutto. Oddio, sì, certamente, magari io spero anche di riuscire a scrivere qualcosa di più. Va bene, va bene, facci sapere. Grazie Michele, a presto. Grazie, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. I feel unhappy, I feel so sad, that I ever had. She was my woman, I love her so, but it's too late now, I let her go. Sentitela come si cambia la puntata di oggi, la storia di Michele ce la raccontate in maniera molto molto precisa come si cambia. Può essere un evento traumatico che ci porta a cambiare, può accadere qualcosa all'esterno, può accadere qualcosa dentro di noi che a un certo punto fa scattare un interruttore, fa accendere una scintilla e il cambiamento parte. E da quando parte, a meno che non ci si racconti delle bugie, quel cambiamento è irrefrenabile. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare una storia che è molto molto recente, arriva da questi giorni così complicati, qui a Linea d'Ombra. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali e nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. vi presenta Linee d'ombra. Inizia così questa storia. Come stai, amore? Chiamo mio marito dal pavimento del soggiorno, dove ora dormo ogni notte, su un materassino in gomma piuma, arrotolato, che mia figlia ha usato anni fa per una vacanza in campeggio, ricoperto da un paio di coperte sottili. Ho bisogno di aiuto, sussurra lui rauco, rabbrividendo nella maglietta e nel maglione di lana che insiste ad indossare. Non volevo svegliarti, mi dice. Ecco, inizia così un lunghissimo pezzo, un lunghissimo racconto apparso qualche settimana fa sul New York Times di Jessica Lustig, una giornalista appunto del New York Times Magazine, in cui racconta la sua personale convivenza con il marito che ha contratto il Covid-19. In questa puntata che si intitola Come si cambia, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Ho dimenticato di mettere l'antinfiammatorio nel piatto di plastica nel bagno che ora è suo, è solo di mio marito. Non posso lasciare tutto il contenitore nel suo bagno. Deve rimanere incontaminato nell'altro, in modo da poter erogare le capsule nel piatto e proteggere la scatola. Qualsiasi cosa tocchi mio marito deve rimanere nella sua stanza o essere attentamente portata dalla sua alla cucina, dove sto tenendo i piatti, mentre nostra figlia, di 16 anni, apre la lavastoviglie e tira fuori le cose mettendole sugli scaffali, in modo che io non debba toccare nulla prima che lei richiuda tutto. Lei mi apre il rubinetto e io prendo dal distributore il sapone con il gomito per lavarmi le mani. Mio marito, un 56enne alto e robusto, che fa regolarmente gite in bici di 5 ore dal nostro quartiere di Brooklyn a Jamaica Bay, nel Queens e ritorno, ora è sdraiato sulla schiena a fissare il soffitto. Indossa gli stessi pantaloni del pigiama da giorni, perché è troppo difficile cambiarli. Sono passati 12 giorni esatti da quando si è svegliato nel cuore della notte, il 12 marzo, con i brividi. Il giorno successivo, proprio mentre i rapporti stavano diventando sempre più urgenti sulla diffusione del coronavirus negli Stati Uniti, lui aveva la sensazione di sentirsi meglio. Poi però i brividi sono tornati, insieme ai dolori e alla febbre. Da quel giorno si è rinchiuso da solo nella nostra camera da letto, nella parte frontale dell'appartamento. Viene verso di noi solo per andare in bagno. La porta della camera da letto rimane saldamente chiusa per tenere fuori il gatto, che ogni volta prova ad entrare. Non dovresti restare qui, mi dice sempre, ma nei suoi occhi vedo il terrore per la notte che sta per arrivare. Diventa più terribile il tutto quando scende la notte. Teme le lunghe ore di febbre, i brividi e i dolori terribili. Questa cosa ti macina come un mortaio, mi dice. Passo le giornate mandando sms al dottore, messaggiando con il suo smartphone e i suoi 5 fratelli in una chat di gruppo e mandando messaggi ai miei genitori, a mio fratello, mandando messaggi ai suoi partner di lavoro e ai suoi amici più cari e ai miei. Ricevo in cambio cuori ed emoticon grati di preghiera in loop nei suoi confronti. Lui è troppo sfinito. Uno dei primi giorni mi ha chiesto il maglione grigio che era di suo padre, quello che suo padre indossava quando era vivo, e da quel giorno non l'ha più tolto. Oh, Io sono stanca di cercare di proteggere me e mia figlia dal rischio di essere contagiate. Pulisco tutto, le maniglie delle porte, gli interruttori della luce, i rubinetti, tutto col disinfettante. Tampono il telefono con l'alcol, lavo tutti i nostri asciugamani, ancora e ancora e ancora. Quando mia figlia vuole fare la doccia, io pulisco l'intero bagno con la candeggina, tolgo la salvietta, gli asciugamani e il tappetino. Le dico poi di cercare di non toccare niente, di farsi la doccia e di tornare nella sua stanza. E faccio lo stesso io. Quando lui deve andare in bagno, si trascina per il corridoio strisciando contro il muro. Si spruzza un po' di acqua sul viso e purtroppo gli deve bastare questo, non può fare la doccia. Non sono così preoccupata che mia figlia si ammali. È se mi ammalo io il vero problema. Intanto le mostro come fare più e più cose, dove vanno le cose, cosa ricordare, come fare nell'eventualità. Le spiego cosa accadrebbe se papà venisse ricoverato in ospedale e se venissi ricoverata anch'io. Potrebbe una sedicenne essere lasciata da sola a casa a cavarsela? E per quanto tempo? L'unica cosa che so è che non posso mandarla dai miei genitori. Loro la vorrebbero, certo, ma lei potrebbe contagiarli. Un giorno mio marito non ce la fa più e quindi decidiamo di andare in ospedale. Camminiamo per strada, a piedi. L'ospedale è abbastanza vicino. Lui sembra ancora più fragile. È chinato in avanti, è fasciato nella sua giacca invernale che sta sopra un'altra giacca che sta sopra il maglione di lana grigia di suo padre. Sopra una maglietta di lana, sopra una canotta a coste. Dice che ha freddo. Indossiamo entrambi dei guanti monouso. Metto la mano attraverso l'incavo del suo braccio e ci dirigiamo verso l'ospedale. Alla clinica un'altra coppia che indossa le maschere apre la porta ed entra. Un uomo con una mascherina siede nella sala d'aspetto. Mio marito si siede su una sedia, si appoggia al muro con gli occhi chiusi. Io vado alla scrivania. Mio marito è positivo al Covid-19, dico all'addetto. I suoi occhi incontrano i miei dietro la mascherina, mi porge un'altra maschera. Aspettiamo. Gli occhi sono ancora chiusi. Guardo fuori dalla finestra, dietro di noi, dove le persone per strada camminano come se fosse un giorno qualunque. Finalmente ci chiamano. Le infermiere gli fanno un primo check. Ha una leggera febbre. La sua pressione sanguigna va bene. Il polso va bene. La saturazione d'ossigeno va bene. Diciamo loro della febbre, dei sudori, la nausea, la tosse, le macchie di sangue che continua a tossire, il numero di saturazione di ossigeno più basso che abbiamo registrato a casa questa mattina. Entra il dottore, che indossa una mascherina e uno scudo di plastica. Gli chiede di seguirlo per una radiografia. «È stato faticosissimo», mi dice quando torna. «Solo tenere le braccia sopra la testa». Sulla porta della clinica osserviamo due donne anziane che chiacchierano ignare. Le avviso che dovrebbero allontanarsi, andare a casa, lavarsi le mani, rimanere a casa. E invece resto lì, goffamente, fino a quando non proseguono. Solo allora usciamo per tornare a casa. Indico la magnolia antica, la forsizia. Lui mi dice solo di avere freddo. I peli non tagliati sul collo, sotto la barba, sono bianchi. Le poche persone che ci passano sul marciapiede non sanno che siamo visitatori del futuro. Questa storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su New York Times Magazine, scritta da Jessica Lustig, che è appunto la moglie dell'uomo che è malato di Covid, che è una giornalista, che è un'autrice del New York Times, che racconta così dettagliatamente questa storia e chiude in questo modo, dice: siamo visitatori del futuro, perché è come se, lei racconta nella storia, è come se loro sapessero qualcosa che gli altri non sanno in qualche modo. E forse, chissà se è così anche per tutte le persone che ne sono uscite, che hanno avuto questo virus orribile che è venuto a farci visita da qualche mese a questa parte e che speriamo se ne vada presto e ci tolga il disturbo. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. E in questo periodo in cui le buone notizie non sono state proprio tantissime nelle nostre giornate in questi ultimi 3 mesi, ecco, forse la prima vera buona notizia ci è arrivata con questa settimana, ci è arrivata ieri, ci è arrivata con il ormai attesissimo lunedì 18 di maggio, che ha avuto a che fare con la ripartenza. E la ripartenza non riguarda solo il lavoro, non riguarda solo le attività commerciali, non riguarda solo le persone che tornano a fare una vita simile, magari non identica a quella che si faceva prima, ma riguarda un modo di vedere il mondo, riguarda un modo di immaginare il nostro futuro. Perché quando si dice da domani si riparte, anche se magari non riparti come vorresti, anche se magari invece sei ancora fermo, perché ad esempio sei un insegnante, sei uno studente e le scuole ormai si sa non riapriranno, riapriranno plausibilmente a settembre, chissà come, chissà con quali modalità, tant'è. Però il 18 di maggio per tutti noi italiani è stata la data in cui idealmente saremmo ripartiti, e così sta succedendo, e quindi noi abbiamo deciso di modificare anche il nostro racconto, i racconti di Linee d'Ombra. Sapete che in questo spazio abbiamo sempre lasciato la parola a voi e ai vostri diari dalla quarantena, cioè abbiamo cercato di mappare che cosa stesse accadendo in Italia in questi giorni, guardando dentro le vostre case. Ebbene, da oggi cominciamo una richiesta nuova, da oggi cominciamo a chiedervi qualcosa che non riguarda più lo stare chiusi dentro, ma che riguarda il ripartire. Per cui, se appunto siete dei baristi che hanno finalmente ricominciato a fare il caffè, se siete degli allevatori, e gli allevatori ovviamente non si sono mai fermati, ma se siete dei maestri di tennis e avete ricominciato a dare una prima lezione, se molto banalmente siete potuti uscire da casa vostra dopo che non lo facevate per mesi perché eravate preoccupati, perché eravate spaventati, ebbene è arrivato il momento di raccontarlo. Da oggi non raccontiamo più i diari della quarantena, ma raccontiamo i diari della ripartenza. L'indirizzo è sempre quello, è lineedombra@radio24.it. Mandateci in una o due pagine, una pagina basta in realtà, come siete ripartiti, come avete vissuto questa apertura delle porte, con quali accorgimenti, con quali attenzioni, ma con quale entusiasmo anche, guardando verso il futuro. Il 18 maggio è stata davvero una sorta di Stargate verso una nuova era, si spera, un'era in cui le cose magari non torneranno proprio identiche a prima, ma in qualche modo ci aiuteranno ad essere, a vivere una vita sicuramente migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. Insomma, i vostri diari della ripartenza, raccontateci come siete ripartiti, quando avete cominciato, che cosa state facendo, come si è modificato il vostro lavoro, Linee d'Ombra, o la vostra vita, non solo il vostro lavoro, anzi meglio, tutta la vostra vita, lineedombra@radio24.it per i vostri diari della ripartenza. Ora però vogliamo mandarvi invece un piccolo racconto in audio, un piccolo racconto che abbiamo raccolto in questi giorni. Sapete, abbiamo cominciato a chiedere come avete vissuto le vostre storie di rinascita nella vostra vita, un po' quello che è successo a febbraio. A un certo punto tutto è diventato scuro e poi finalmente siete ripartiti, e questa storia è la storia di una giovane donna che viene colpita da una malattia che colpisce in questo caso le donne, perché stiamo parlando di un problema, di una malattia legata al seno, ma che l'ha sorpassata, è ripartita ed è tornata a godersi la vita. Quindi, se avete voglia di mandarci anche la vostra storia di rinascita, mandateci un audio sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra. Se invece volete mandarci il vostro diario della ripartenza, lineedombra@radio24.it. Più o meno un anno fa mi hanno diagnosticato un tumore al seno. È stata una bella doccia fredda, però diciamo che il lato positivo è che l'ho scoperto, mi hanno tolto completamente un seno, per fortuna non ho dovuto fare terapie importanti e niente, e diciamo che la mia rinascita è venuta un po' col tempo, nel senso ho dovuto metabolizzare il tutto. È una rinascita importante, una cosa che capita a chi ha questo tipo di malattie, perché capisci veramente di quanto ti può cambiare la vita in poco. La

Grazie a chi rende possibile tutta questa puntata, grazie a Luca Micheli, a Paolo Corleoni, a Mauro Pescio e ad Anita Panizza. E vi ricordo che se volete partecipare, oddio, così sembra un gioco a premi, ma se avete voglia di essere parte di questo programma, se avete voglia di mandarci una vostra storia di confine che abbia in mezzo una linea, oppure una storia della vostra quarantena, l'indirizzo è lo stesso: lineedombra@radio24.it. Noi lo prendiamo e ci facciamo una puntata. Ora diamo la linea al GR e torniamo domani sempre alle 15 puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!